Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, bentrovati ad un nuovo appuntamento di Salva Danaio. Cominciamo subito con il raccontarvi quello che sta accadendo questa mattina in borsa. Qualche anticipazione, come di consueto l'abbiamo già data nel corso del giornale radio, c'erano tutti i presupposti per poter raccontare di una seduta positiva, anche perché a quanto pare da oltreoceano ci arrivano notizie rassicuranti sul passaggio al congresso di questo maxi piano da 700 miliardi di dollari di sostegno al sistema bancario americano. Il Senato dovrebbe dare il suo via libera nelle prossime ore, ma a quanto pare l'incertezza sta di nuovo tornando a pervadere soprattutto i mercati europei questa mattina, che non riescono a rimbalzare quanto ha fatto ieri Wall Street, anche se ieri già l'Europa era andata benino. Cosa succede? Succede che intanto Parigi sta perdendo lo 0,20%, Francoforte lo 0,6%, mantiene il territorio positivo Londra più 0,4%, ma guadagnava più di un punto, mentre sta scendendo pesantemente Piazza Affari, che perde l'1,65%, il MIPTEL sta perdendo l'1,34%. Quindi insomma, a quanto pare, e questo era un po' anche il tenore dei commenti che abbiamo fatto negli ultimi giorni, la convinzione è abbastanza diffusa, questa crisi finanziaria americana si sta spostando con tutti i suoi effetti dirompenti in Europa, e questo naturalmente sta gettando nella preoccupazione molti risparmiatori, i correntisti che cominciano ad andare a ritirare i propri depositi nelle banche, anche se queste fila le stiamo vedendo non ancora in Italia ma soprattutto in altri paesi europei. Ma naturalmente c'è chi si interroga sullo stato di salute della propria banca. È una domanda ragionevole. Noi tutto questo lo commenteremo questa mattina con due persone che sono gli autori di quello che ho definito nel corso del giornale radio, almeno anche un'opinione personale, ma probabilmente ne sono convinti in molti, il caso editoriale del momento. Gli autori di un libro che si intitola Vaffanbanca, dai bond argentini, eccoli che già cominciano a fare gli irriverenti anche in onda, dai bond argentini ai mutui assassini, manuale di autodifesa economica e finanziaria a rendimento garantito. Non vogliamo spaventare nessuno, ma sono due persone che hanno tutta l'autorevolezza e la preparazione anche per aiutarci a capire cosa accade e soprattutto quanta preoccupazione devono avere gli italiani. Buongiorno intanto a Lorenzo Marconi, analista finanziario specializzato nella consulenza per clientela istituzionale e patrimoni familiari in Banca Cesare Ponti, se non ricordo male adesso. Sono più in Banca Cesare Ponti, ecco. Ma adesso sto facendo un progetto di consulenza per la Intra Private Bank del gruppo Veneto Banca. Benissimo. Però è una cosa che sta partendo adesso, esatto. Quindi allora l'in bocca al lupo è d'obbligo naturalmente. E poi saluto con particolare affetto Marco Fratini. Marco, buongiorno. Lo racconto perché così magari generiamo attenzione. Siamo stati compagni di banco per 3 anni in un'altra avventura professionale prima delle nostre rispettive attuali. Marco è caporedattore in una TV importante, alla 7, e insomma si conoscono da tempo, curano insieme una rubrica su un importante settimanale, e ad un certo punto hanno cominciato a dire: perché non scrivere un libro che racconti un po' quali sono i rapporti degli italiani con il proprio istituto di credito? E hanno fatto anche un po' il punto della situazione sui grandi casi clamorosi degli ultimi anni, Tango Bond, il caso Parma, la Tecidi e quant'altro. Tutto per arrivare a dire che cosa? Io non volevo partire con la consueta domanda: come nasce questo libro? Però Lorenzo, chiarisci come nasce forza. Questo titolo. Diciamo che, vabbè, poi ci torniamo. Comincia con Lorenzo Marconi. Ma intanto bisogna dire che la fortuna dell'uscita nel momento in cui saltavano le banche americane è stata provvidenziale. E poi comunque diciamo che è stata proprio la Rizzoli a chiamarci lo scorso autunno, leggendo la rubrica su Oggi. E sembrava una buona idea poter declinare questo discorso così sempre noioso della finanza e anche un po' autoreferenziale invece in maniera diversa, in maniera più comprensibile, per cui questo è un libro che nasce proprio per andare alla gente, al risparmiatore, all'investitore, che spesso, bisogna dirlo, e qui forse c'è una motivazione nel titolo, nelle banche fa domande ma non trova sempre le giuste risposte. Marco, nel libro tu lo racconti, ne abbiamo parlato anche molto spesso, è molto difficile anche raccontare bene l'economia, molto spesso per semplificare magari grandi temi economici, tipo che ne so, la crescita del nostro prodotto interno lordo oppure la decrescita, perché adesso non siamo esattamente in una situazione di crescita, dobbiamo molto banalizzare anche i grandi temi economici. Non è facile anche fare amare l'economia, questo è un presupposto interessante di questo testo. Ritieni di esserci riuscito, insomma? Noi non sappiamo se ci siamo riusciti. Ci siamo divertiti sicuramente a scrivere questo libro. A quanto pare qualcuno si sta divertendo a leggerlo e anche a comprarlo. Continui a comprarlo, se no non ci divertiamo più noi, ma l'impressione che abbiamo avuto scrivendolo è che ci usciva dalle mani in realtà un linguaggio non abituato alle stilografiche d'oro dei grandi economisti e anche dei grandi banalisti, ma più che altro a due persone che chiaramente vivono in questo mondo ma cercano di guardarlo con occhi diversi. E abbiamo così, cerchiamo di dare in prestito queste lenti, questi occhi diversi a chi poi effettivamente si confronta con questo mondo poche volte all'anno, soprattutto in questi giorni in cui c'è molto allarmismo e forse bisognerebbe arrivare un po' più preparati, un po' più tranquilli per capire che il mondo non si ferma perché è fallita Lehman Brothers. Eh sì, però il problema è che adesso molte preoccupazioni si stanno cominciando ad accanire su alcune banche italiane, questo è un altro aspetto. Lorenzo Marconi, allora che cosa rispondiamo a chi in questo momento vede il titolo della propria banca crollare? Poi magari andiamo anche ai temi di Piazza Affari, perché non è che vogliamo fare esclusivamente questa mattina come dire la propaganda e il libro. Abbiamo chiamato questi due colleghi anche perché sanno darci magari un commento, sono in grado di darci un commento rispetto a quello che sta accadendo, anche forse è dovuto grado di rassicurazione. Lorenzo, possiamo farlo? Ma intanto bisogna dire ai nostri radioascoltatori che i mercati oscillano per definizione. A me piace sempre ricordare che come entriamo nelle depressioni, altrettanto abbiamo vissuto sui mercati grandi momenti di euforia. Senza andare tanto lontano, nel maggio dell'anno scorso, insomma, si professava un rialzo che non avrebbe mai avuto fine. Chiaramente qui la situazione è via via peggiorata e lo tsunami che è arrivato d'oltreoceano chiaramente non poteva non coinvolgere anche i mercati europei, e in questo momento vediamo grande volatilità anche sul mercato di Piazza Affari. Però quando ci sono questi repentini cambiamenti sulle azioni, anche questi crolli improvvisi, io credo che siano dovuti non tanto alla vendita del signore della porta accanto, ma qui entrano probabilmente dei basket di vendita, delle quantità molto molto importanti, in grado di muovere insomma investitori industriali che in questo momento, essendo in difficoltà, trovano nel mercato azionario una buona liquidità, perché in questo momento dobbiamo dirlo, cioè questa è una crisi oltre che sistemica, oltre che di sfiducia nei confronti del sistema finanziario, del sistema bancario, è anche una grandissima crisi di liquidità e paradossalmente l'equity, cioè il mercato azionario, in questo momento è ciò che c'è di più liquido e prontamente liquidabile rispetto a tante altre forme di investimento che invece dovrebbero dare maggior sicurezza. Intanto stamattina, oltre al ribasso di Piazza Affari più accentuato del resto d'Europa, abbiamo, lo leggo adesso dall'agenzia, un nuovo balzo dei tassi interbancari nonostante il superamento della boa di fine trimestre. Leggo una radio: corre, i tassi interbancari ci preoccupano non poco, perché il famoso plurinominato Euribor a tre mesi è il parametro a cui vengono agganciati, almeno sono stati negli ultimi anni, adesso abbiamo una situazione, una tendenza diversa, agganciati mutui a tassi variabili sottoscritti da molte famiglie italiane. Marco, affrontate anche questo compresa capitolo. La mia compresa, se proprio. Anzi, molti ascoltatori molto spesso mi scrivono: ma signora Rosciani, anche lei ha fatto questo errore. Non è questione di errore, era conveniente, sapevo però quello che facevo. Sì, peraltro, la questione è questa. La consapevolezza è una cosa importante, quella che noi trattiamo anche nel libro. Marco. Sì, è chiaramente fondamentale rendersi conto quando si sottoscrive un mutuo di questo genere a tasso variabile a che cosa si va incontro, e poi bisognerebbe spiegarsi bene sul fatto che magari il variabile può darti dei vantaggi all'inizio, ma magari non te li può dare alla fine, è variabile per sua natura. Quindi arrabbiarsi quando sono passati 6-7 anni dalla prima rata del mutuo, francamente lo ritengo un po' tardivo. Poi per quanto riguarda ti posso chiedere se stai tentando di rinegoziarlo? No, non lo rinegozio, lo fa, perché non è proprio un favore. Lo annullo dalle mie amicizie. Adesso, noi la chiamiamo ratatouille, quella cosa che è stata inventata da Tremonti, una cosa un po' simpatica, sicuramente per andare sui giornali. In quei giorni le banche erano il nemico perfetto, chiaramente profetico, perché le banche in queste ore sono ancora il nemico perfetto. Poi chiaramente quel tipo di risistemazione, ristrutturazione dei nostri debiti non è proprio un favore, forse è un favore alle banche, visto che possono allungarsi con noi come clientela per qualche anno. 800 24 00 24, non ricordate un numero verde, ma i nostri ascoltatori, se vogliono questa mattina, possono interagire con voi, chiacchierare con voi e magari porci anche se vorranno le loro preoccupazioni, per capire che interpretazione danno Lorenzo Marconi e Marco Fratini. Intanto però voglio proporre ai nostri ascoltatori uno stralcio del libro, quello in cui Marco e Lorenzo spiegano ai lettori che cosa significa essere inceppati nella crisi dei mutui subprime. Secondo il prontuario delle banche americane, con il termine subprime si indicano i mutui concessi a soggetti a rischio di insolvenza più alto della media. un modo grazie al quale si fa credito anche a chi non offre grandi garanzie di pagamento delle rate, cioè a chi deve per forza arrampicarsi da qualche parte per rimediare i soldi necessari al suo scopo. Nel gergo dei media questi mutui sono stati definiti facilitati, ma la strizza che hanno preso le borse e la rapidità con cui la Banca Centrale Americana, la famosa Federal Reserve, ha tagliato nel settembre 2007 i tassi di interesse dello 0,5%, il doppio di quanto si aspettassero gli esperti in quel momento, hanno confermato quanto quei mutui fossero diventati semplicemente troppo facili. Gli americani hanno pagato e hanno anche rimediato alla loro genetica inclinazione di prestare i soldi al primo che passa. Si tratta, secondo il Fondo Monetario Internazionale, di perdite potenziali pari a circa 200 miliardi di dollari che peseranno sui bilanci di banche piccole e grandi, ma che, in tutta onestà, sono un piccolo danno a fronte di una democrazia economica che ha già superato il rodaggio. Rivelano piuttosto il funzionamento di un sistema che non prevede troppa anticamera dai direttori di banca e non se la prende male se, una volta su 20, i soldi prestati fanno una pessima fine, dato che negli altri 19 casi sostengono sogni e bisogni che fruttano. Questo è il motivo per cui non bisogna fare l'errore di santificare le banche europee e principalmente quelle italiane. Tranne rare eccezioni in Gran Bretagna, rappresentate soprattutto da una delle prime 5 banche specializzate in mutui, la Northern Rock, nel nostro continente gli istituti di credito hanno evitato gli schizzi di fango. Ma questo non le assolve del tutto. Il perbenismo con cui varie istituzioni hanno rassicurato cittadini e risparmiatori italiani, che qui possono dormire sonni tranquilli, è la più involontaria ma utile conferma che da noi i soldi si prestano dopo lunghe anticamere, vivisezionando le richieste con la perizia di un chirurgo. E, soprattutto, si prestano a tassi incredibilmente più alti della media. Sono mutui e prestiti molto difficili. Nonostante tutto, la tradizionale prudenza delle banche italiane nella concessione del credito è stata celebrata, trita e ritrita, nei commenti di molti editorialisti senza alcun appunto critico, come una grandissima virtù. Rischia invece di essere una condanna. Nella crisi dei mutui subprime, gli Stati Uniti hanno pagato la loro disinvoltura creativa. Qui da noi, un certo tradizionalismo un po' inerte, lo pagheremo sempre. Marco, quando avete chiuso il libro... Maggio, quando avete giugno. Scritto l'ultimo maggio. E lì scrivevate, insomma, nel nostro continente gli istituti di credito hanno evitato gli schizzi di fango, oggi non ne siamo più tanto sicuri. Lorenzo Marconi. Sì, noi ci riferivamo al fatto che le banche in Italia ti danno i soldi quando se hai l'ombrello e soprattutto se hai garanzie adeguate, e non c'è lo stesso liberismo che c'è in America, che oggi chiaramente sta punendo il continente americano. Certamente gli schizzi di fango sono arrivati, lo dicevo prima, lo tsunami ha coinvolto l'Europa e sta coinvolgendo in maniera, direi, decisamente impanicata anche il mercato italiano. Forse cioè, non c'è più nemmeno tempo per il panico. Esatto. Sì, infatti qua a questo punto è quasi diventato un si salvi chi può, quindi non c'è neanche il tempo per avere paura. Ci manca molto il Marco Fratini nella veste di conduttore di Fixing. Un saluto a tutti da Giulia Antonella. Grazie. Marco, questa te la dovevo e ovviamente si ricordano di te, ma non che ci fossi anch'io accanto a te a fare la trasmissione. Gravissima mancanza. Detto però io andavo da entrambi. Esatto, tu venivi magari quando facevo quella del pomeriggio. Aprirei il microfono ai nostri ascoltatori per così stiamo tentando anche stamattina, raccontando il nostro privato, di sdrammatizzare un po' una situazione che, lo ribadisco, sta creando non poche preoccupazioni a molti. C'è chi però in ogni caso guarda al mondo degli investimenti perché magari tenta in ogni caso in questo momento di individuare occasioni, chissà se possono essere propizie nel futuro o meno, opportune come rendimenti poi nel lungo termine. Massimo da Varese, lei che cosa sta... Che cosa ha intenzione di fare? Buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. Grazie, vengo subito al dunque. Allora, andiamo io sono cliente dell'Unicredito, visto che la banca nell'occhio del ciclone, mi hanno fatto comprare, io sono molto attento nel senso che non voglio rischiare, quindi ho preso un'obbligazione, mi hanno fatto prendere un'obbligazione della Citigroup. Innanzitutto vorrei sapere se questa Citigroup è una banca o una banca di intermediazione tipo Starley Morning. Poi l'ho presa con un tripla A e addirittura con patti chiari per un importo anche molto abbastanza alto, sì. Oltre 100.000 euro. Mm. Io voglio sapere dagli esperti se posso stare tranquillo, visto che sono stato consigliato da loro, perché a questo punto qui non c'è più sicuro. Allora, di niente. Una cosa solo mi interessa sapere, sì. Massimo, visto che comunque qua se c'è una teoria che tutti, una teoria che dovrebbe essere anche una buona pratica, che tutti gli ospiti di Salvadanaio tentano di inculcare in tutte le loro possibilità, è quella della diversificazione. Mi interessa capire se lei ha investito tutti i suoi risparmi in quest'unico prodotto. Assolutamente, no, io faccio un 15% azioni, 70 obbligazioni, 5, assoluto. Poi dipende anche dall'età. È un'altra cosa voglio sapere, Massimo. Siccome vi seguo molto, ho imparato qualcosa. Meno però male. Vedo che qui anche uno impara, ma le banche, scusi, Che dirle? No, Massimo, voglio solo sapere quando lei dice mi hanno fatto comprare, ma comunque quando ha fatto questo investimento, per capire se nel tempo magari insomma. L'ho fatto 15 giorni fa, un mese fa. Ecco, e qui c'è dolo allora. No. Stiamo stramazzando sulla scrivania. Stia tranquilla. Allora, Citigroup, la più grande banca americana, ha ovviamente pagato le conseguenze di questa crisi finanziaria. Non è però una banca, ha sbagliato qualche nome, Massimo, che opera esclusivamente non è una banca di investimenti, è anche una banca commerciale. Mm-hmm. Beh, intanto chiaramente esporsi in queste giornate e dire chi è sicuro e chi no dal nostro osservatorio sarebbe veramente presuntuoso, perché insomma è difficile, purtroppo non facciamo ancora parte della stanza dei bottoni, per cui insomma ricordo anche che Parmalat era il decimo titolo dell'indice Standard & Poor's MIB, per cui voglio dire le rassicurazioni da parte di tutti i banchieri si sono sprecate anche da chi poi il giorno dopo è fallito. Magari partirei dal concetto del rating. Io non sono molto favorevole, l'ho sempre espresso con grande chiarezza, sulle agenzie di rating e il fatto che Lehman Brothers proprio sul sito Patichiari il giorno prima avesse una pagella di A+ e il giorno dopo, una volta fallita, la banca è fallita in un fine settimana e lunedì mattina il rating era invariato. Ecco, per cui voglio dire, il giorno dopo è passata da A+ a D, per cui insomma queste sono cose abbastanza grottesche e per cui bisognerebbe ripensare le regole dell'attribuzione dei rating da parte delle società. Questo, poi qualcuno parla di conflitto di interessi, io non voglio creare delle situazioni che non ci appartengono, però sicuramente le regole di attribuzione sono sbagliate. Insomma, le pagelle, Marco, non valgono più, però a che cosa ci aggrappiamo allora quando vogliamo fare un investimento? Ma insomma, io vorrei un attimo dire una piccola cosa ancora sulle pagelle. Allora, innanzitutto non ci compete parlare di conflitto di interessi, ma ormai in queste ore lo stanno facendo un po' tutti quando si parla di agenzie di rating. È chiaro che le agenzie di rating sono uno degli ultimi baluardi sacrali di un certo tipo di finanza che ormai alla prova dei fatti e della storia non funziona più. Sono tre le agenzie di rating nel mondo, anzi due e mezza, perché ce n'è una. Un gestore una volta mi ha detto, perché cosa le chiamiamo ancora a fare agenzie, che sono comunque delle società private. Ma no, e quindi sono, insomma, il termine sono agenzia qui qua, sono tre nipotini dello zio Paperone. Le paga le società per cui chiedono il rating. La Debora non l'ha capita questa, ripeto, qui qua, sono i tre nipotini dello zio Paperone. Dipende dalle eventualità, si muovono facendo le pagelle e poi chiaramente in altri casi danno consulenze. Chiaramente in un sistema come il nostro, ad alta sensibilità, forse basterebbe allargare lo spettro di queste possibilità di dare pagelle a più società. Forse basterebbe quello. Poi a che cosa fidarsi in queste ore? Io tutte le mattine la mia mamma mi chiama e mi chiede cosa devo fare dei miei soldi. Li porto via? Ma dove li porti? Ma stai tranquilla, non diciamo che la mamma è cliente della Banca di Roma, però magari insomma adesso la Banca di Roma è confluita su un grande gruppo come Unicredito, che è uno di quelli in queste ore di cui si parla moltissimo sui giornali. Dico, mamma, stai tranquilla, cioè non siamo nel 29, ma ammesso poi che questa possa essere una crisi tipo stile 29, nel 29 forse l'errore fu togliere i soldi dalla cassa delle banche. Quindi cerca di mantenere la calma, poi aggrapparsi a cosa? Forse al buonsenso. Ma il buonsenso come ce lo facciamo? Ce lo facciamo probabilmente con la conoscenza, solo che traspare in queste ore sui giornali probabilmente un eccessivo allarmismo che non ci aiuta. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Questa mattina stiamo esplorando lo stato di incertezza di molti risparmiatori italiani. Per la verità, adesso questo è uno stato che sta accomunando molte persone in tutto il mondo, che guardano inevitabilmente con una certa apprensione la crisi finanziaria internazionale. Ma noi stamattina abbiamo cercato in qualche maniera di rassicurare un po' tutti. Speriamo che da questa crisi se ne esca. Forse gli effetti saranno più lunghi, più dolorosi di quelli che ancora stiamo vedendo, ma probabilmente, come sempre quando si tocca il fondo poi ci si rialza, anche se Marco Fratini, quando lavoravamo insieme a 24 ore TV e parlavamo dei ribassi di borsa, quando tu dici, si tocca il fondo si scava. Si scava, no, si rimbalza, Piazza Affari scava, mi dicevi sempre. È un po' quello che sta facendo stamattina, però noi torniamo un po' ai vostri suggerimenti, a quello, su quello che dovrebbe essere un approccio corretto anche in questo momento, per esempio con la propria banca. Allora, sentiamo ancora i nostri ospiti, i nostri amici che ci chiamano da casa. Giancarlo da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, io ho bisogno di un'informazione, cioè un correntista può stare tranquillo, può dormire sonni tranquilli, cioè io ho un conto corrente, ho una buona parte di CCT, però ho anche un'obbligazione, che come diceva il suo ospite prima, di non guardare più al rating, una tripla A, si chiama General Electric, posso stare tranquillo? Ha una scadenza lunga, 0,16. Giancarlo, lei ha... Allora, sì, Lorenzo, Marconi, allora, sui CCT credo che possa dormire veramente sonni tranquilli, sia dal punto di vista della volatilità inteso come rischio, sia dal punto di vista proprio della sicurezza, perché insomma se fallisce lo Stato italiano non sarà più un problema di soldi investiti, avremo altri problemi. Per quanto riguarda i conti correnti, posto che c'è una legge bancaria del 36, esatto, in Italia, forse andrebbe ricordato perché non lo leggiamo spesso. Tra l'altro noi abbiamo il tetto di possibile rimborso più alto di tutta Europa. 103.000 euro, che erano i vecchi 200 milioni. Per cui insomma, da questo punto di vista mi sento di poter tranquillamente rassicurare il nostro radioascoltatore. Venendo a General Electric, è stato uno delle società più chiacchierate la settimana scorsa. Venerdì, se non vado errato, comunque giù di lì è uscito un profit warning da parte della società sui risultati, un allarme utili sì, che però le dichiarazioni, ci sono state delle dichiarazioni ampiamente rassicuranti. In questo momento mi sento di poter dire che su questo tipo di azienda non dovrebbero esserci grossi problemi. Certo, la natura del suo business, visto che insomma è nel settore, è impegnata fortemente nel settore del credito, certo la mette tra quelle società potenzialmente a rischio, però direi che in questi momenti questa società dovrebbe essere a posto. Marco, in questi anni, Marco Fratini, sono proliferati sul mercato molti istituti di credito che hanno dall'estero portato la loro offerta in Italia, proponendo per esempio i famosi conti di deposito. Noi ne abbiamo parlato molto spesso e anche molte banche italiane, molte no, per la verità non moltissime, hanno adeguato la loro offerta commerciale con l'introduzione di questi conti ad alta remunerazione. Per esempio, in una fase come questa, visto che arrivano una marea di domande di ascoltatori su per esempio ING Direct, che è stata il pioniere assoluto nel nostro paese, insomma questo conto di deposito che offre una remunerazione interessante un po' più bassa rispetto alle ultime offerte italiane. Mi stai facendo una domanda cattivissima, io tengo famiglia, non posso rispondere, faccio il giornalista. Sentiamo. E mi appello al quinto emendamento, no. Rispondo per quello che posso, così a occhio, io non faccio l'analista, faccio il giornalista, ma secondo me è anche un po' quello che abbiamo scritto nel nostro libro. Quando si parla di conti di depositi, bisogna partire dal presupposto che si tratta di ormai prodotti finanziari fatti e finiti, e quindi bisogna usare la prudenza e la cautela che si usa quando si acquista un prodotto finanziario. Una quota del portafoglio, dico bene Lorenzo? Assolutamente, la diversificazione, lo diciamo sempre, è fondamentale, perché anche chi aveva il 5% di obbligazioni Lehman o Lehman, per dirla come la dicono quelli bravi e la dicono giusta, ma qual è il problema? Del resto un po' di pepe sugli spaghetti si può mettere. Il problema è non fare un piatto di pepe con dentro uno spaghetto. Però allora chi adesso rischia di perdere tutto il proprio investimento, ammettendo anche che sia una piccola fetta del proprio portafoglio, non ci sta. Michele dalla provincia di Milano, benvenuto. Buongiorno, io devo chiedere, io sono ho delle obbligazioni Lehman che avevo acquistato dal mio gestore in banca, UBS, e mi dice che sarei un privilegiato come credito, eccetera, eccetera, però dicono adesso stanno vendendo degli asset ad altre banche, eccetera, e che quindi ci dovrebbero essere delle possibilità di poter recuperare qualcosa. Qualcosa, sì. Volevo chiedere se è corretta questa risposta che ha dato il gestore, oppure... se non si prende più niente. Allora Michele, dunque nella teoria sì, nel senso, a parte che non capisco come un piccolo risparmiatore possa essere un creditore privilegiato. Vabbè, avendo acquistato delle obbligazioni, del resto non si è fatto mancare niente, in UBS ha comprato le obbligazioni Lehman. Vabbè, non infieriamo, no, povero. No, vabbè. No, comunque in ogni caso è corretto, Lehman Brothers è in Chapter 11, ha richiesto la protezione verrà contro spacchettata, molti asset dell'azienda sono già stati peraltro venduti, e magari parlando anche di valori, perché dentro le aziende poi ci sono anche delle persone, molti dipendenti che non avevano nessuna colpa, che abbiamo visto uscire dalla banca con lo scatolone in mano, sono stati anche riassorbiti per esempio da Barclays, che ha comprato le attività nordamericane. Le insegne di Manhattan di Lehman Brothers sono state prontamente cambiate, insomma il segno anche di come la Marco le cose vadano in maniera molto diversa. Perché no, ma sai perché arrivo a questo? Perché quando ho assistito alla vostra presentazione del libro qualche sera fa alla sede del Corriere della Sera, abbiamo fatto anche questo volo pindarico parlando di Alitalia, insomma sul fallimento delle società. Beh, come le cose vadano molto diversamente, anche se poi negli Stati Uniti Lehman è stata l'unica vittima sacrificale, e forse per fortuna. Ma non insomma, abbiamo ancora dei buoni avvocati al punto tale da poterci sbilanciare. Esatto, vorrei risponderti già così, ma insomma però poi alla fine solo 24 me la tiri fuori. Non parliamo, tutto sommato non parliamo in chiesa, l'abbiamo parlato in chiesa al Corriere della Sera, lo facciamo anche qui. No, beh, l'impressione che abbiamo tra l'Italia, se vogliamo fare all'Italia come usarla come esempio per il nostro stile, Lehman Brothers come esempio dello stile d'oltreoceano, è chiaro. Lì hanno fatto fallire quello che doveva fallire. Wall Street ha dato proprio l'input, cioè qui quello che deve fallire fallisce, da noi quello che deve fallire resiste. Questa è la differenza. Poi chiaramente c'è anche la differenza di stile. Noi italiani abbiamo protestato in piazza, abbiamo visto piloti seminudi, loro con i loro trolley, con la loro scatolina, sono usciti ordinatamente dal loro ex posto di lavoro. Poi bisogna chiedersi perché hanno fatto fallire effettivamente Lehman Brothers e per esempio hanno salvato America. Ma è molto semplice dal punto di vista tecnico. Probabilmente Lehman, che in queste ore passa per essere brutta, sporca e cattiva, non aveva venduto poi così tante porcherie in giro per il mondo, e forse alla fine non avrebbe inquinato più di tanto la falda. Hanno preferito chiuderla. American, meglio salvarla, perché ci saremmo portati per anni. Esatto. Alla fine questa è l'impressione. Poi c'è forse un fattore anche molto cinico, che poi tutto sommato potrebbe in queste ore essere anche rassicurante. In America hanno salvato la più grande banca del sogno americano, che praticamente in questo ultimo secolo e mezzo, 158 anni per la precisione, ha finanziato tutto quello che in America si muove. E probabilmente spartirsene le spoglie può essere sicuramente utile. Lì chiaramente si sta seduti sopra una montagna di soldi che al momento sembra carta, avvolta dalle nebbie, ma prima o poi le nebbie, secondo me, almeno si dissolveranno. 800 24 00 24, un'altra domanda interessante di Stefano da Monza, che saluto. Benvenuto Stefano. Buongiorno a tutti. Io volevo chiedere se acquistando titoli di Stato, bond, CCT, eccetera, in una banca, se questa banca fallisse, chi risponde, cioè chi restituisce i soldi? Lo Stato garantisce i titoli di Stato acquistati in questa banca oppure no? Grazie Stefano, questa è una domanda insomma tipicamente ci stanno facendo in questo momento i nostri ascoltatori. Lorenzo, visto Marconi, che siamo a salvadanaio, citiamolo. Insomma, se le si rompe il salvadanaio non è che il contenuto va a farsi benedire. Se lei compra... è un esempio bellissimo, non ci avevo mai pensato. Grazie. Quindi non si rompe il contenuto, non si rompe la banca il contenuto, intermedia questa non è vendita. Esatto, la banca fa solo da intermediario e fa di fatto il suo mestiere, perché così ricordiamo ai nostri radioascoltatori che le banche fondamentalmente oggi sono delle grandi farmacie, prima erano delle aziende che compravano e vendevano soldi, oggi sono delle aziende di servizi, sono delle aziende appunto, come si dice, commerciali, per cui intermediano BOT e CCT. Lei ha comprato BOT e CCT, lo Stato garantisce la solvibilità dell'investimento e dell'obbligazione che lei ha sottoscritto, e la banca, nel caso dovesse fallire, le restituirà i suoi titoli e lei li andrà a mettere da un'altra parte. Vi leggo intanto due agenzie che sono arrivate proprio pochi istanti fa, me le hanno portate le mie collaboratrici. Intanto addirittura in borsa questa mattina qualcuno vociferava di possibili dimissioni di Alessandro Profumo, numero uno di Unicredit. Fonti del gruppo, dopo i rumor di borsa, indicano che sono assolutamente voci infondate, mentre il premier Berlusconi sta parlando a Napoli ad un vertice sull'emergenza rifiuti e dice: non consentirò attacchi speculativi alle nostre banche, non accetterò che i cittadini italiani perdano neanche un euro dei loro depositi. Beh, direi che mai come in questo momento parlare di prodotti strutturati, di index link e di certi tipi di obbligazioni debba essere fatto parlando di rifiuti, per cui questo direi che no, è il contesto ideale per parlare di questi temi. Però insomma, in queste Berlusconi ore è stato veramente perfetto nella sua disamina. In queste ore il mercato è fatto dagli addetti ai lavori, cioè noi non ci stiamo sul mercato in queste ore, mia madre, nostra zia, nostro cugino, fa altro, magari trema, si compri un bot, ma insomma non va sul mercato. Chi va sul mercato in queste ore è quello scafato, se vende qualcosa fiutato, non è matto. Con la crisi di liquidità che però c'è anche molto panico, per cui io c'è anche che molto panico. Come nei grandi momenti di rialzo, sì, l'euforia porta a dei voli pindarici che non sono, come dire, non corrispondono ai reali fondamentali, perché insomma, adesso parliamoci chiaro, nel 2000 abbiamo visto quotare delle aziende che mai avrebbero dovuto essere quotate. E sempre Marco diceva, si quotavano i sogni. Beh, sì, vatti a leggere anche la voce del glossario IPO e poi diciamo che quotavano della roba a cui avevano tolto la puzza, cambiato il colore, messo un bel fiocco, insomma, per cui e questo però la gente la comprava. Abbiamo visto acquistare aziende che mai avrebbero avuto un rapporto prezzo utili, perché gli utili mai li avrebbero visti nella loro storia salire del 5000% in qualche settimana. È chiaro che nei momenti di panico si scatenano delle fobie veramente, come dire incomprensibile è sbagliato, perché sono emotive, sono irrazionali, per cui tra l'altro la speculazione ci gioca su questo, perché dobbiamo spiegare ai nostri radioascoltatori che insomma un prezzo si forma tra qualcuno che vende e qualcuno che compra. Infatti, per cui in questo momento, se c'è qualcuno che vende preso dal panico, forse ci sarà qualche mano forte sotto che raccoglie a dei buoni prezzi, esattamente come sui massimi le mani forti vendono alla massa che corre a comprare. Noi purtroppo ancora in molti TG, e non nella tua chiaramente nella tua trasmissione che fa un bellissimo servizio ai risparmiatori, ma ancora in molti TG sentiamo dire che le borse crollano perché tutti hanno venduto. Tutti non esiste, non è che le azioni finiscono sul marciapiede. Gli ascoltatori sono anche molto intelligenti, insomma. E anche quando noi facciamo dei pezzi e per sintetizzare, diciamo, in giornata bruciati 300 miliardi di capitalizzazione, sì, insomma, molti contestano e osservano, ma comunque c'è anche chi compra. Allora, c'è addirittura un ascoltatore che ipotizza che dietro tutta la nostra euforia questa mattina nel commentare questa giornata anche di borsa, che ha tutta un'euforia invece al contrario, ci sia un mio presunto fidanzamento. No, Sergio, la devo deludere purtroppo, sono però contenta di averlo invitato. Con tutti e due. Siete già felicemente sposati. Scusami. E tra l'altro di uno sono anche amica della moglie, per cui non si può. Allora, eravamo ad Unicredit e c'era Marco che ci teneva a fare una precisazione su quello che potrebbe essere anche il calo di questi giorni. Insomma, bisogna ricordare che Unicredit dal punto di vista del nostro sistema effettivamente è stata, fino a prova contraria, un gioiello. Ha una grandissima proiezione internazionale e questo in queste ore l'essere globali non aiuta. Lo sta pagando. Poi chiaramente qualcuno magari ricorda un recente passato in cui sui giornali si è parlato di un caso Unicredit a proposito della vendita di alcuni prodotti non proprio semplici ma piuttosto complessi, i famosi derivati, anche ai Fabbri Ferrari del Nord-Est, e allora qualcuno magari fa 2+2 e mette tutto insieme e dice questo ritorna. Però insomma adesso non bisogna nemmeno esagerare, veramente è difficile trovare le parole giuste in un momento come questo in cui tutto crolla e sembra che tutte le vacche sono nere, come diceva Hegel. Qui non c'è più neanche il toro, che ha perso anche lui sicuramente colore, però insomma adesso da qui a dare la patente di inaffidabilità a una grande banca che fino a ieri ha veramente reso onore tutto sommato al nostro sistema, probabilmente può essere prematuro, ma è chiaro che in queste ore il mercato probabilmente fiuta qualche problema. Il problema non si capisce perché lo trasferisce anche sul Banco Popolare, che sta perdendo il 7% sospese, intesa e sospesa, per cui stamattina vedo che c'è proprio un clima pessimo. Esatto, nei grandi momenti di panico non si fa selezione, quando c'è un po' di fumo in discoteca tutti corrono verso la porta, poi magari era solo una sigaretta spenta male in un posacenere. Io vorrei ricordare anche a questo proposito, pensate solo al fenomeno della viaria: non abbiamo mangiato il pollo per 6 mesi, quando la probabilità di morire per un pollo ammalato era 1 su 1 milione, quando invece tutte le mattine facciamo la coda in tangenziale dove ne muoiono 2 al giorno, insomma. Allora, sto continuando a vedere dalle anticipazioni sul nostro monitor delle domande che vi vogliono rivolgere i nostri ascoltatori, che le obbligazioni indicizzate sono ancora il grande oggetto del mistero e anche del portafoglio di molti amici che appunto ci chiamano. Avevamo da un po' pronta Angela da Milano, credo. Angela, benvenuta. Buongiorno signora Rosciani, senta, Io dei suoi brillanti ospiti potrei essere non la madre ma la nonna. Ed essendo pensionata avevo bisogno di cedole. Ho parecchie obbligazioni della Dexia, comprate in più riprese. Sa, quando io avevo qualche risparmio, 10, 15 mila, così 20 mila euro, prendevo un pacchetto di obbligazioni. Mm-hmm. Andavo bene, era una tripla A, o anche KfW, la BEI, che credevo la più sicura di tutte. Adesso sono un po' spaventata. Senta Angela, no, tanto per capire, per esempio ha fatto una telefonata in banca, mi piacerebbe sapere se le hanno dato così qualche rassicurazione, perché questa banca sì è in difficoltà, però ha avuto un ingresso nel proprio capitale importante da parte dei governi di riferimento. Che cosa le hanno detto? Dunque, in una mi hanno detto che ma non sapevano, non era preciso, ho guardato sul computer e niente di preciso, e gli ho detto di farmi sapere qualcosa quando erano sicuri. L'altra è caduta dalle nuvole dicendo ma che erano garantite, e dico ma quel che succede adesso, stamattina per esempio mi hanno detto la Dexia giù del 30%, ma no, ma qui ma là, comunque mi faranno sapere qualcosa quando a loro volta avranno una, suppongo, una certezza, ma qui certezze non ne ha. Non ce n'è nessuno. Angela, allora cerchiamo di rassicurarla intanto. Tra l'altro Dexia, un'importante banca franco-belga che confeziona nel nostro paese anche molti titoli del debito degli enti locali, ma a parte questo, che non ha nulla a che fare con Angela, la banca è stata salvata dai governi belga, francese e Lussemburgo, se non mi ricordo. Benelux. Il Benelux anche in questo caso, esattamente come con Fortis. Esatto. Quindi questo in qualche maniera dovrebbe rassicurare Angela. Forse quando la polizza arriverà a scadenza. Beh, ma poi se la signora ha delle obbligazioni, chiaramente le obbligazioni alla scadenza vengono rimborsate. È chiaro che giustamente la signora guarda la quotazione del titolo azionario che viene è chiaramente influenzato dalla situazione, ma perché lo dicevo prima, quando il mercato azionario in questo momento è il mercato più liquido, per cui si fa cassa qua. È chiaro che il settore finanziario è nell'occhio del ciclone, non si fa selezione, si vende tutto. Poi se ci aggiungiamo che comunque molte banche europee, Dex è una di quelle, ha avuto decisamente dei problemi, ma come hai sottolineato tu è stata decisamente aiutata, è chiaro che bisogna aspettare che passi la polvere e tutto ritornerà più o meno nella normalità. Poi direi che BEI e BIRS non sono in discussione. No, infatti, quindi gli enti sovranazionali, insomma, da quel punto di vista dorma sonni tranquilli. Massimo dalla provincia di Messina, che ci vuole tra l'altro introdurre il discorso sull'investimento fatto alle Poste, e anche qui insomma con Marco Fratini già immagino che ne sentiremo delle belle. Massimo, sì, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Allora, io ho acquistato in passato dei prodotti di tipo index linked di Poste Vita, che sono legati a dei grossi colossi europei tipo ABN AMRO o Barclay. Rischio qualcosa in questo momento? Beh, lei ha parlato di due banche che non mi pare che, anzi Barclays addirittura sta... Sembra la più liquida in questo momento. Esatto, sta facendo grande shopping in questo momento, come sta facendo il Santander per esempio, per cui... Allora, la questione è che questo è un prodotto complesso, esattamente come quelli che abbiamo indicato, non ci sono rischi particolari, ma... Stupisce che sia stato venduto alle Poste, però... Vabbè, ma adesso diciamo si sono sostituite ad una banca in tutto e per tutto... Sì. Questo è grave. Vabbè, detto questo, adesso comunque non dobbiamo ancora gettare panico nei nostri... No, non è questione di panico, però... Se posso intervenire, ci lamentiamo dei bancari. Esatto, poi, ci lamentiamo dei bancari. Poi abbiamo 44.000, se non vado errato, sportelli postali. Questa è stata la loro fortuna. Sì, certo, però sai, fino a ieri facevano fatica a inviare una raccomandata, la prioritaria non arrivava, e adesso distribuiscono prodotti finanziari. Ma non voglio fare il terrorismo, però dobbiamo toccare un punto importante, che è il tema della distribuzione. Cioè, i prodotti di per sé non sono buoni e cattivi, ma è l'utilizzo che se ne fa che diventa buono o cattivo. Perché il coltello lo puoi usare per ammazzare il cugino oppure per tagliare la fiorentina, e la colpa non è del coltello. La verità è che, e lo vediamo anche dalla domanda della signora, della radioascoltatrice che ha chiamato poco fa, purtroppo non c'è ancora un criterio di autorevolezza, di informazione da parte del sistema distributivo. Questo dobbiamo dirlo, cioè non erano preparati all'ordinaria amministrazione, figurarsi a questo tsunami che ha colpito i mercati. mercati, per cui... Quindi no, per sintetizzare e anche dare magari un'indicazione all'ascoltatore, voi ho capito che una index alla Posta non l'avreste mai comprata, detto questo è la stessa index che magari può vendere la banca per rassicurare, certo. Cioè, sì, diciamo, certamente, però mi piacerebbe sapere che tipo di informazioni però sono state date nel momento, dare ai risparmiatori dei prodotti venduta, che siano confacenti al loro profilo di rischio, al loro criterio di diversificazione. Insomma, non ci si può improvvisare sarti del risparmio solo mettendo uno scaffale di pantaloni e camicie. Questo volevo dire. Purtroppo, mentre le perdite, anche qui dobbiamo toccare un tema, mentre le perdite del segmento azionario sono metabolizzabili da parte del risparmiatore, invece qui abbiamo molti risparmiatori che sono stati colpiti al cuore perché gli sono stati venduti dei prodotti a capitale garantito, a capitale protetto, anche qui si dovrebbe aprire un dibattito, e chiaramente li hanno colpiti in quelle che erano le loro sicurezze, e queste sicurezze oggi non le hanno più. Io devo chiudere la trasmissione, avrei voluto continuare ad avervi ancora per 2 ore, però insomma non possiamo. Intanto indichiamo i termini del libro. Marco Fratino, lascio fare a te. Vaffanbanca, dai bond da argentini ai mutui assassini, manuale di autodifesa economica e finanziaria a rendimento garantito, titolo dissacrante. Il testo è sicuramente educativo, molto interessante e anche molto divertente, per cui cerchiamo di sdrammatizzare anche una situazione che è già pesante, insomma, per i numeri che raccontiamo ogni giorno. Grazie a Marco Fratino e Lorenzo Marconi. Grazie. Salvadanaio a te. Torna grazie. Domani, buona giornata a tutti.